così è. E poi per il resto, novità non ce n'è mai, non succede mai niente. Una volta almeno si facevano mercatini, ma anche Cosa aveva iniziative interessanti all'epoca. Antonio Grode voleva fare la mostra in Piazza Italia, voleva fare con l'associazione, poi non c'è uscito niente. Almeno aveva iniziativa lui, solo che se non c'è coesione cosa vuoi qua? Ah, ormai. Cosa vuoi fare se non c'è collaborazione? Non è che uno si può mettere a fare le cose così, capito? Assolutamente. Va bene, cosa vuoi ti dica? Non so cosa dirti, tanto oramai siamo tutti così, facciamo due chiacchiere tanto per ammattare il tempo e basta, già va bene lo stesso Marco, dai, non c'è problema. Ecco qua, ho memorizzato il canale 10 qua, c'ha tre memorie questo solo, altri baracchini hanno 4, 5, metto il 10, il 23, così quando fa la scansione almeno per ascoltare, poi non so cosa mettere. Tripla 5 non ne vale la pena perché ormai la propagazione è chiusa, no? Fino all'estate prossima non se ne parla. Va bene, tutte cose comunque si usano poco, per esempio l'eco. Ma adesso stanno mettendo l'eco anche in questi apparecchi per i 10 metri, no? 10 metri sempre, mezzi baracchini, mezzi 10 metri. Che senso ha? Una volta non è entrato in 10 metri con l'eco, mi pare, o per sbaglio, per prova, uno aveva detto roba e l'aveva mandato a quel paese, lo ricordo male io. Non mi ricordo, forse col Cobra stavo provando, c'avevo l'eco attaccato. Vabbè, ma poi gli ho detto, non l'ho dato nominativo, quindi deve essere che ha controllato su QRZ e si è calmato, era convinto che era un pirata. Va bene, dai, no, non c'è problema comunque. Ogni tanto bisogna anche fare qualche prova tecnica di trasmissione, niente di particolare. Va bene, quindi questo 9.50 sta andando bene, giusto per fare due chiacchiere, già è ottimo, dai. Adesso però lo sto usando con l'altro microfono e con l'altro aggancio, perché ne ha due. Col Turner più 3 questo, l'altro invece è l'MC60. E io poche volte ti ho sentito uscire male, anzi forse mai, sì, qualche apparecchio, qualche timbrica un po' più, forse più metallica, più, però per il resto sempre bene. Ok, che palle di serata, domani domenica, peggio che mai. Comunque meno male che si è calmato un po' il vento, perché credevo molto peggio oggi, molto ma molto peggio. Invece bene o male vedo che almeno qui che non è aperto si è calmato molto. Sì, è sceso da 80-90 km orari a 50, siamo ancora un po' 40-50 km orari. Dovrebbe scendere stanotte, dai, un po'. Dovrebbe scendere, però domani c'è di nuovo vento. Anche domani c'è vento, pioggia, così adatto. Un po' di tregua nel pomeriggio, o al contrario, adesso non mi ricordo. E poi lunedì di nuovo pioggia. E vabbè, facciamo fare, cosa avete di che? Tanto se il tempo è questo, almeno rimaniamo a casa. E anche Cosa sta uscendo poco, anche Ivan sta uscendo poco perché non riprende a lavorare, non è che può sprecare benzina per andare così, qualcosina forse il primo ottobre fa qualcosina, non so se te l'ha detto, roba da poco comunque, già gli è costato però. Per esserci fidato di un pirla che voleva aprire un nuovo locale, ha lasciato l'altro lavoro e ha detto no, non ti preoccupare, tranquillo, no, non ti metto in casino, invece poi non ha aperto, e lui ha dovuto lasciare quel lavoro lì, che schifo, guarda, o se no quell'altro di prima, di una certa pizzeria in via Roma, per carità, uno peggio dell'altro sono, i datori di lavoro sono dei cani arrabbiati. Ma lui già ne hanno cantato 4, cioè, ma cazzo, cioè, sei reduce da un'esperienza che ti è costata tantissimo, ma non male se ti hanno fatto rientrare e poi ci ricadi di nuovo. Ma cazzo, ma rimaniti dove sei, ma non si lascia la strada nuova per la vecchia, capite? Non si prende una cosa nuova per una vecchia che è già testata, stai bene e tutto, assolutamente. Tu sai nell'ambito mio lavorativo quante offerte di lavoro ho avuto, anche al doppio dello stipendio, al doppio, non qua a Sassari. Non mi sono mai spostato, non mi sono mai spostato, mai, mai, mai e poi mai, perché non fa, capito, non fa. C'è un sacco di gente che promette e poi non mantiene niente e ti mette nei casini, capito? Lui ha nuovamente sbagliato, doveva rimanere dove era, basta. Edo è sempre così, salta, non si salta più, no. Quando c'è un posto di lavoro tu lo devi tenere molto, molto stretto. E sai cos'è? Lui crede un po' nella buona fede delle persone, insomma dei datori di lavoro. Io ho detto, sono tutti uguali. Anche se ti prendono, fanno di tutto magari per non assicurarti o comunque per toglierti tutto quello che ti possono togliere dallo stipendio. E così è. E sì, vabbè, ci è cascato più volte, però ancora non ha imparato a non fidarsi troppo. Sai cos'è? Quando ti propongono il doppio della paga, la cosa è allettante per tutti, no? Ah, poi aveva aperto mi quello di Campanetta, che non era il vecchio però, era un altro. Aveva aperto, capito? A lui l'ha lasciato a terra, con le gomme a terra l'ha lasciato a cosa. E lui probabilmente ha trovato qualcuno magari di zona, qualche schiavo gli dà una miseria, capito? E c'ha il dipendente a pochi soldi. Questo lui già se l'ha immaginato che succedeva così, capito? Se l'ha immaginato che succedeva così, però ti ripeto, lui si fida troppo alle persone ed è quello che bisticciava lui col padre. È per quello, si attaccavano per queste stronzate. E chiaramente Giuseppe diceva, ma che se rimani dove sei, stai bene, lavori 3 volte alla settimana, rimani dove sei, cosa di buoni, impegolati, aprire, a fare, società, non società, ma dormi sereno, tranquillo. E invece lui voleva sempre rischiare, giustamente si rischia, che non rischia non picca, però devi avere la persona giusta, la persona veramente seria, perché altrimenti la prendi nel buco del culo, capito? E così ha fatto lui, ha mollato tutto per andare dove e poi adesso è a piedi. E rientrare non è facile in questo periodo. Non è assolutamente facile, perché questo cazzo di pandemia sta sempre camminando, sta andando avanti e non si sa come va a finire, capito? Quindi la gente non si fida. Sì, a parte tutto, sì, ci mancava anche il sto cacchio di virus. Tutto quello che consegue. Guarda, si stanno mettendo, aspetta, in Francia, non so se a Lione dov'era, stanno di nuovo chiudendo i bar e i ristoranti e ci sono gli esercenti che hanno le mani nei capelli già, sono già disperati, perché anche lì stanno aumentando i contagi molto, almeno le fonti ufficiali dicono così, prendiamole per buone. E stanno salendo in Germania, Francia, un po' tutto me, anche da noi, infatti, mamma mia, c'è una paura. Spero che se proprio devono chiudere lo facciano intelligentemente, cioè a zone, cioè nelle zone rosse, come chiamano loro, chiudere, ma non tutto da nord a sud, tutto chiuso. Boh, E comunque questo virus è rognoso, non è che te lo stacchi così, è una cosa che rimarrà, non è come l'influenza stagionale, passa e va e poi ne viene uno nuovo o diverso. Questo resterà in giro per mesi, se non per anni. Ogni tanto qualcuno si ammalerà, come già ho detto. Ogni tanto qualcuno purtroppo morirà. Ma mi sembra una cosa un po' troppo resistente, che sia proprio fatta in laboratorio, mi improvetta sta roba, che schifo. Hanno chiuso il tie break ieri, mi cazzo quello di Montserrat, provo a capirci o no, che non siamo messi bene, la gente è convinta, ma non è così, non è così, la gente è convinta, ma non è così, hanno chiuso il tie break a Montserrat, dove lavorava mia figlia, capito, dove ha lavorato mia figlia. Ieri due contagi, l'hanno chiuso immediatamente, adesso stanno sanificando tutto e quelli sono in quarantena, hai capito? Una struttura, cazzo, c'ha 30 dipendenti, l'hanno chiusa ieri a mezzanotte. Cacchio, non lo sapevo, proprio non lo sapevo, poi notizia recente, troppo recente, e se cominciano così, mamma mia, un caos, e quindi quanti giorni di chiusura devono ottenere loro una volta sanificato? Non si sa. O comunque, vabbè, il dipendente infetto se ne sta a casa, ma una volta sanificato riapriranno, no? Ma bisogna vedere da dove è entrato, hai capito? Siccome è un locale che fa non stop 24 ore su 24, quindi non si sa, adesso devono verificare, devono vedere, intanto è chiuso, infatti mia figlia stava parlando col tutorale perché sono in buoni rapporti, tra l'altro il suo commercialista, il dottor Fadda, gli ha detto un bel casino, cioè ho 30 persone a casa, non so dove metterle, anche se ho le altre attività, non so dove metterli, capito? E uno si trova in grande difficoltà, sono ragazzini, sono questi cazzo di ragazzini che non hanno capito una minchia, sono questi ragazzini che non hanno capito niente, continuano a girare senza mascherina, sembramenti, da tutte le parti tu li vedi, tutti bagendici, tutti attaccati, sono degli stronzi, è gente che non ha capito niente. Sì, ma se ne fregano, ma non solo i ragazzini, anche gente grande, io li vedo tutti, soprattutto ai bar, pusaddi, cioè anche quando non consumano, vabbè, chiacchierano tutti senza mascherina e sono uno attaccato all'altro. Poi vabbè, i ragazzini sono il maggior numero, no? E loro poi ti fanno discorsi, ma tanto a noi non prende, sì, ma contagi i genitori, contagi i nonni, contagi gente a scuola, contagi insegnanti, cioè fai da veicolo, in poche parole, fai da veicolo. Che ti devo dire? Purtroppo non lo capiscono, né grandi né piccoli, guarda che anche qua vicino vedevo tavolini, gente tutta uno sull'altro, vabbè, cazzo, vabbè, siamo perdere, non sia che mi sentano. Vabbè, con l'antecedente ti mettono la faccia nel culo. Ma cosa non prende? Se c'erano i funerali avanti ieri di un ragazzo di Isi di 34 anni, ma qua stiamo dicendo, morto di coronavirus, constatato, capito? Constatato, morto di coronavirus, quindi 34 anni, ma cosa stiamo dicendo? Cioè bisogna stare attenti, è un virus di merda che quando ti attacca l'ha preso ai polmoni immediatamente, non riusciva più a respirare, l'hanno portato in ambulanza al pronto soccorso ed è morto al pronto soccorso, cioè 34 anni, ma ti rendi conto, l'età di mia figlia, ma cazzo questa gente non ha capito nulla, ma cosa non ti attacca? Quello vuol dire che era predisposto, poveretto. Sì, comunque è vero, a qualcuno non fa nulla, cioè ti viene, manco te ne accorgi, non hai febbre, nulla, certi li porta alla tomba, come certe influenze però. Certe influenze sono mortali per alcuni e ad altri non fanno niente, manco te ne accorgi. Questa è una cosa un po' più delicata, per come è fatto, per come è costruito, capito, sto virus. Poi però mi dicono che sono fissato io, che sono paranoico. Poi la Cina stranamente è pronta con valigie di soldi a rilevare tutti gli esercizi in crisi o che stanno chiudendo, che strano, forse ha ragione Trump. che sono dei figli di Indrocchia, i cinesi. Infatti lo sono, lo sappiamo, no? Vabbè, vedi in Francia cos'è tutto il casino che c'è, tutte le cose. Però troppo alla leggera. Troppo, noi non avevamo un contagio. Hanno aperto discoteche, boh, il disastro. Il disastro. Il disastro è successo, capito? Cosa costava? Ma cosa sono servite le discoteche? A cosa sono servite? Lasciavi i ristoranti aperti, i bar, con tutte le precauzioni che c'erano. E basta. Come fai tu ad andare a ballare e non stare vicino? Cioè, hanno sbagliato, capito? Sono stati degli errori madornali, infatti sono stati contestati tantissimo. Però non va bene. Il contagio è venuto dalle discoteche, dai ragazzini che erano convinti che a loro non succedeva niente perché sono immuni, no? Secondo loro, capito? Ed è partito tutto da lì. Con questo ragazzo era sano, Marco, non aveva nessuna patologia, dichiarato dal suo medico, nessuna patologia, niente, niente. Ha iniziato a stare un po' male, respirava male, sembrava una broncopolmonite, capito? Le solite cose, no? Un sintomo influenzale qui e là, cazzo, è andata all'ambulanza a prenderlo immediatamente, è constatato il Covid-19, è morto al pronto soccorso, hai capito? 34 anni. A Bergamo, no, sto prendo il giornale, sì, Cristian Persico, 34 anni. Questo qui è Bergamo, sempre quella zona dei vaccini, dove hanno fatto quella massiccia cosa anti-meningococco, anti-influenzale, gli hanno dato un cocktail di roba in quella zona, secondo me ha indebolito anche il fisico a molti, seppure non è roba voluta, non lo so io, non lo so cosa c'è dietro, chi tira i fili dall'alto, molto molto in alto, vabbè, meglio non pensarci. Ah, Isidi, cosa a Bergamo? Isidi, Sardegna, ah, Isidi, ne è morto uno venerdì, ah, Isidi. Ah, in Sardegna, allora questa è notizia vecchia, aspetta. Qualsiasi data, facciamo ultime 24 ore. Ebbè, non lo trovo, vabbè, dai, comunque, non lo trovo. Non me lo dà. Ah, Isidi, quello magari è successo adesso, capito? Isidi, giovedì, mercoledì o giovedì, c'è un funerale venerdì mi pare, capito? Ah, Isidi, vicino a Cagliari, dopo Cagliari, prima di Cagliari, insomma ricordo, insomma, punta di casino, infatti c'è tutto il paese in quarantena, hanno chiuso tutti i bar, è un casino, cioè sta succedendo di nuovo un casino, mi dispiace per mia figlia, perché c'è un'attività proprio di bar, guarda, è un casino, se chiudono adesso si va a fondo proprio, si annega completamente, non ti sollevi più, come fai? Ehi, ma a quanto ho capito lei ha fatto aperto una cosa con qualche amico, c'è un'attività nuova e quindi devono stare, sì, devono prendere tutte le precauzioni, per carità, purtroppo ha, come dire, aperto in un periodo un po' delicato, ma tutto a monte è andato, un bel di roba è andata a monte, mamma non si è potuta operare, lei doveva fare ben due operazioni a due gambe. L'hanno chiamata in realtà dall'ospedale, ma lei ha paura che se dice va all'ospedale a operarsi alla gamba si becca il coronavirus, perché lo sai che tanto gli ospedali sono un ricettacolo di virus. E ogni tanto qualche dipendente se lo becca, se se lo becca uno nel reparto succede come in cardiologia all'inizio, è stato un'ecatombe lì. Quindi vatti a fidare. Lo so, lo so. Vabbè, sì, è una società, insomma. Comunque, è un casino. È un casino. Beh. Speriamo bene per tutti quelli che lavorano e per tutti quelli che hanno qualcosa. Sì, precauzioni, ma non è questione di precauzioni, no? Non si entra. dentro il bar senza mascherina, no? Sembra 20, no? Pochissimi, però è così, basta che tocchi un qualcosa, non ti lavi le mani, non hai guanti, non è solo la mascherina, no? Tante cose ci sono. Io parlavo con il mio medico che è abbastanza colto in materia, ma non perché sia medico, ma perché è una persona che ne sa un bel, e mi ha detto la preoccupazione più grande è non indossare la mascherina, è il toccare le cose anche degli altri, dove magari ha toccato un altro. Tu per esempio vai a fare la spesa, ok, senza guanti, prendi il carrello, quel carrello l'ha preso un altro che disgraziatamente manco lo sa, però ha qualche patologia che ti può danneggiare, tu sei buttito, capito? Tu sei fregato. Ci sono tante cose, tantissime cose. Ti appoggi in un posto dove magari secondo te non c'è niente di male, eppure può essere un aggravante, capito? Vero. Aspetta che abbassi il ricevitore, sono in antennino pure, porca miseria. E non ho bucato il muro. E devo far passare il cavo del ricevitore uno spiraglio della finestra, però col vento ho chiuso tutto. Sì, è vero, quel discorso è vero. Per quanto tu faccia, magari anche nel periodo dei guanti, o con guanti, senza guanti, anche se ti metti il gel, poi tocchi qualcosa, ti metti la mano in tasca, prendi le chiavi, prendi il portafogli, prendi il portamonete, ti tocchi i capelli, ti sfiori il viso, cioè nonostante tutte le contromisure che tu prenda, se ti deve beccare ti becca, non c'è un cazzo da fare. Io conoscevo anche gente che si sterilizzava la macchina a livello, ma tipo Ebola, tipo quei film virus letale, mortalità al 90%. Per quanto tu faccia, se ti deve beccare ti becca. E quindi andiamo incontro a quello che ci riserva il destino. Così è. Oh, mi sono fatto una bella tabella canali di Del Boy Channel, plastificata, bello, troverete tutti i canali dal più basso al più alto, perché quando ti dicono che so 40 sotto, 40 sopra, la frequenza non te la ricordi, canali intermedi, plastificata col plastificatore, bellina come scheda. Eia. Va bene Arcoli, dai, io mi preparo e manesco col cane prima che faccia buio. Se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Non lo sento Gianfranco stasera, ne ho pochissima voglia, già la senti dalla voce, sono un po' scoglionato. Ci ho fatto la barba, la doccia, i capelli, però non aggiungare stare seduto qua, dai. Mi preparo, manesco un po', prendo una boccetta d'aria visto che ho abbassato un po' il vento. Se ci sei ci sentiamo dopo, va bene? Ciao. Te lo stavo per chiedere Claudio, ok? La voce è un po' abbacchiata oggi. E capita anche a me. Infatti io quando mi sento poco bene fisicamente oppure un po' giù, non essendo proprio. Poi lascio a monitor sempre il 10 perché così dai. Se non stato il giorno a suonare la radio, capito? Ok Claudio, dai, porta il cane. Già c'è un po' di vento adesso, mi ha oscillato l'antenna del ricevitore qua, è brutto, visto proprio, quindi vai e vieni, ancora non è passato del tutto. Prendila con filosofia, io non ho fatto né barba né niente, sembro un naufrago, me la farò domani oppure lunedì mattina che devo uscire di nuovo con questo dentista. Praticamente mamma si è fatta la dentiera, però dobbiamo andare ogni tanto a fare lavori di aggiustaggio, di controllo, di ogni paranoia. Siamo un giorno sì e due no che andiamo da questo dentista. E poi lunedì ha messo fulmini, tuoni fulmini, speriamo di no, però io c'ho una FIFA, poi per le antenne non ne parliamo. Ok, ciao Claudio, buona serata, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Ciao. Ehi Marco, va bene, no, non è che sono, non ho altri problemi, sono un po' così scoglionato, forse la giornata, non aggiornami, capito? Un po' di preoccupazioni un po' generali. niente di che. Dai, ci si aggiorna dopo, se ci sei, adesso me ne esco un po', magari mi fa bene prendere una boccata d'aria, sono tutto il giorno richiuso dentro casa. Ciao, se ci sei, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, ciao Claudio, ciao ciao, buona passeggiata. Passeggia anche per me, anch'io sono tappato a casa, ciao ciao. Va bene, faccio un giro in più allora, dai, ciao. Ciao, ciao, ciao.